stata fatta un'inchiesta approfondita e ha portato a un nulla di fatto. È lo stile dei dirigenti che viene fuori. No, mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento, come sono stati milioni in ogni sport. Primi e secondi in qualifica qui, primi e secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime 3 o 4 gare sono state molto dominanti per loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio, convocati come sempre all'800 24 00 24, numero verde per parlare di quello che vi pare. Scrivete anche quello che vi pare al 349 238 6666. Prima di andare su Buffon, che non gioca a Milano oggi, freddo, però una giornata meravigliosa. Ieri ha provato a fare allenamento, questa mattina riprovino, non ce la fa, gioca De Santis. E dunque poi ognuno dirà quello che vuole. Intanto ha detto quello che voleva e le ha sparate Cassano a casa di Fazio, sentiremo anche questo. Parleremo dell'unico laboratorio sportivo pulito che pare funzionare in maniera meravigliosa. Tanto io strabuzzo gli occhi, rimanendo nella cronaca, e visto che Tutti Convocati vuole essere un programma aperto a tutto il mondo dello sport e non chiuso solo agli orizzonti degli appassionati di calcio, lasciatemi strabuzzare gli occhi davanti a un risultato che ho visto ieri sera. 80 a 58 è il punteggio con il quale Avellino, priva peraltro di 2 giocatori, ha umiliato la corazzata Milano. Stiamo parlando di pallacanestro, in questo caso ha strapazzato l'Armani Jeans Milano, e che comunque è un risultato che fa abbastanza scopa con il 74 a 67 con il quale Siena ha perso a Varese, che rimane imbattuta. Beh, se Siena e Milano nei pronostici della vigilia dovevano essere le dominatrici del campionato italiano di basket, ve le regalo, perché mi sembra che in questi tempi, siamo a inizio stagione d'accordo, ci sono tutte le attenuanti del caso d'accordo, però in questi tempi racimolare soprattutto per quanto riguarda Milano figuracce di questo tipo non mi sembra autorizzi a pensare ad una dominatrice vera di questo campionato. 800 24 00 24, numero verde. Intanto ogni giorno vi regaleremo un flash di avvicinamento a questo benedetto Juventus-Napoli che si gioca sabato alle 18. Partiamo, guarda caso, proprio dai portieri. Come detto, notizia di oggi è che Buffon questa sera guarderà la partita al caldo, in tribuna o in panchina con la coperta sulle preziose gambe, mentre in porta va il portiere del Napoli, Morgan De Santis. Is it getting better? Quella più bella, forse anche per importanza, la feci a Manchester contro il Milan su Inzaghi di testa. Seedorf è pronto a cross, arretrato Inzaghi, Buffon incredibile! Miracolo di Buffon! Fischia l'arbitro, parte Lucarelli, il destro, la parata di De Santis! La parata di De Santis! Dobbiamo erigere un monumento al pirata Morgan! Il pirata Morgan, santo subito! De Santis, santo subito! Did I disappoint you? Ne ho fatta anche una a Madrid sulla punizione di Zidane, secondo me. Beh, ho fatto qualche buona parata. Prova Zidane, Buffon ci arriva! Rallentiamo i battiti del cuore, attenzione, ancora De Santis! Ti porto io in Vaticano, ti porto io stesso stanotte! per i miracoli che stai compiendo. Beatificazione immediata per il pirata Morgan De Santis. A me fa morire, mi fa impazzire Auriemma, le sue telecronache. Santo subito ti porto io in Vaticano. Riusciamo prima di tornare su questi discorsi. Tra l'altro abbiamo pescato anche una dichiarazione, poi ve la faccio sentire, di Buffon del 2004, perché ieri Olsen, Morten Olsen, CT danese, ha avuto il pessimo gusto di tornare su certe storie. Però lasciatemi fare i complimenti, l'ho detto in apertura, a Giorgio Valli, coach di Avellino, che ieri ha umiliato quella che è la grande favorita per il nostro campionato di basket, cioè Milano. Buongiorno coach. Buongiorno a voi. Bravo. Però direi non ho umiliato nessuno, dai, abbiamo giocato una partita. Beh, leggo 80-58, ho visto l'andamento della partita. Se non vogliamo parlare di umiliazione, parliamo di disfatta milanese, coach. Ma diciamo che noi abbiamo giocato una presa di energia. Voglio pensare positivo e parlare della mia squadra. I ragazzi avevano molta voglia di vincere questa partita, lo dovevamo anche di fronte ai nostri tifosi. Ha tirato fuori veramente tanta energia, soprattutto difensiva. E Milano? Beh, Milano non ha tirato fuori nulla. Ma diciamo che Milano all'inizio sì, perché siamo partiti 7-0 per loro. E il talento è tanto. Diciamo che noi abbiamo cercato di non dargli facili uno contro uno e chiudere l'area. È andata bene, però squadre come Milano sanno che devono essere pronte più avanti, in primavera, quindi credo che questi test siano poco indicativi per loro. Sì, non voglio togliere nulla alla prestazione della nostra squadra, però insomma, chi fa l'Eurolega, chi deve vincere un titolo più avanti ha altri tempi. Sì, io leggo anche 74-67 con cui Siena ha perso a Varese, cosa che peraltro è capitata spesso nelle ultime stagioni, e dico, se queste devono essere o dovrebbero essere dominatrici del nostro campionato, beh, forse avremo un campionato più aperto di quanto ci si possa immaginare. Ma noi ce l'auguriamo un po' tutti, noi che siamo un po' più di qualche classe inferiore, anche perché penso che l'interesse per i tifosi possa essere maggiore. Però ripeto, ci sono obiettivi differenti, noi ovvio che dobbiamo cercare di fare tesoro di ogni partita. Ieri avevamo la grande necessità di vincere e i ragazzi hanno dato veramente qualcosa anche di più, anche per gli assenti che c'erano. C'è chi scrive: appassionatissimo di sport e soprattutto di basket, ci sono troppi stranieri, guardo più volentieri l'ex Serie B. Questo è il messaggio di un ascoltatore di Ferrara. Coach, un'ultima cosa che col basket non c'entra. Sì. Tutta questa polemichetta strisciante, un po' pelosa, su Buffon che non gioca, che c'è Juve-Napoli, eccetera, eccetera. Vista da fuori, da sportivo, come la valuta? Ma io non lo so, io credo che a volte si creano un po' dei falsi casi. Io vivo il gruppo, vivo la squadra. Se un giocatore non gioca perché non può giocare. Giocatori professionisti di questo livello qua secondo me non hanno secondi fini, la vedo in maniera molto più chiara, ecco. Però magari sono anche un po' ingenuo. Sì, però vive anche nel paese in cui la dietrologia è padrona, eh? Sì, e che invece magari potremmo anche abbandonare, dico io, perché ci farebbe anche vivere tutti un po' più serenamente. Questo non lo so, io spero fino all'ultimo, però no, fino all'ultimo nel senso fino al mondiale. Ah sì, no. Il problema che ma da qui a là sicuro, dai. Sicuro non tanto. Il problema che alle convocazioni lo sanno prima i giornalisti che la diretta persona che sono io. I giornalisti hanno saputo 4-5 giorni prima che non mi convocavo. Questa è l'unica cosa che un pochettino mi irrita veramente. Poi se salterò il prossimo mondiale, amen, significa che sì, ho saltato già due, salterò il terzo molto probabilmente, non mi cambia la vita. Farai il quarto. Andrò avanti, il quarto ha 60 anni però. Allora Cassano, che è andato a casa di Fazio ieri a spararle, sempre divertente, almeno dal mio punto di vista, poi c'è chi non lo sopporta, ma pazienza, questione di gusti. C'è Massimo da Mestre che invece pone un problema a cui io non so dare soluzione, che è questo. Io non sopporto i telecronisti che gridano sempre, anche se uno tira su i calzettoni, ridatemi pizzure e martellini. Massimo, non c'è una soluzione su questo se non abbassare il volume, che cosa vuole che le dica. Siamo andati invece a ripescare una certa dichiarazione di Gianluigi Buffon datata 2004, quindi qualche annetto fa. Beh, hanno imparato, però ci hanno anche superato secondo me, perché io sono sempre del parere che nel momento in cui una squadra è senza stimoli ci può anche stare che faccia vincere un'altra o che non ci metta animosità. Sono anche del parere che se due squadre basta il pareggio possono anche non farsi male, ma riuscire a fare 2-2, da un pareggio a dire 2-2, passa molto secondo me. E intanto ieri CT Morten Olsen nella conferenza stampa prepartita ha avuto un'uscita tutt'altro che elegante, tutt'altro che felice. Chi è ladro pensa che tutti rubino. Questa piaciuta poco, voto basso, non so come la pensate, per Morten Olsen. 800 24 00 24, il numero verde. Sentiamo un altro Cassano, sempre da Fazio. Ho rifiutato 3 volte la Juve. Per varie situazioni non sono mai andata alla Juve perché ho un'idea che lì vogliono solo i soldatini, vogliono solo gente che va sul binario sempre dritto. Io delle volte devo andare a destra e a sinistra a fare quello che mi pare, delle volte sì. Pago sulla mia pelle e delle volte pago lo stesso. Io saluto e ringrazio Piercarlo Presutti, responsabile dello sport dell'ANSA, che è il collega che tra l'altro per la cronaca sempre ha avuto l'idea fantastica di fare a Cassano in conferenza stampa quella famosa domanda sui gay. Ciao Piercarlo. Ciao grazie. Carlo, ma non è un'idea fantastica, era dovuto, era normale che lo si chiedesse in quella situazione. Senti, non ma è per... un'idea fantastica, semplice cronaca. Semplice cronaca dici tu? Col sì. Casino che ha fatto? Vabbè, il casino l'ha fatto perché Cassano poi ha detto certe cose. Certo. Ascolta, ma secondo sì. Te perché non lo vogliono più in nazionale? Perché Prandelli nemmeno lo chiama per dirgli, guarda Antonio... Allora, le cose secondo me vanno separate, Carlo mio. Mm. Allora, non lo vuole più in nazionale perché davvero pensa di dover investire sul futuro... con gente di età giovane o media il discorso del sapere e dell'esclusione dai giornali è figlio della nostra voglia di anticipare le decisioni del CT quindi è chiaro che noi giornalisti quelli che seguono la nazionale in particolare cerchiamo di dire in anteprima chi sarà il convocato d'attacco in coppia con Balotelli, chi chiamerà al posto di Buffon, e ci abbiamo le nostre fonti. Sì. Quindi magari il CT non prende il telefono ad ogni convocazione per chiamare Cassano e dirgli non t'ho convocato neanche stavolta. Capisci? Cioè sì, noi lo veniamo a sapere da fonti nostre. Il CT non ritiene necessario dover avvisare Cassano e dal combinato disposto di queste due cose Cassano lo scopre sui giornali. Sui giornali, naturalmente. Piercarlo, c'è chi scrive qui a tutti i convocati via SMS che ha assolutamente ragione il CT danese Morten Olsen dicendo chi è ladro pensa che tutti rubino. Sì, sulla storia del biscotto? Se uno è abituato a pensare male, no? È probabile che sia perché qualcosa di male ha fatto. Detto questo, non faccia lo spiritoso, appunto, Morten Olsen, perché appunto. Loro il biscotto l'hanno fatto. Loro il biscotto l'hanno fatto e quindi inutile. Ce lo dice il buon senso. Ma no, dice il buon senso. E poi, Carlè, non ci piace essere presi in giro, no? No. No, non tanto, siamo sempre molto permalosi su questo. Sono molto permalosi anche gli ascoltatori sulla storia di Buffon, che io trovo abbastanza pelosa, però quando c'è la nazionale a ottobre, quando c'è Juventus-Napoli dietro l'angolo, è evidente che, sai, questo è un paese che è stato governato per anni da uno che ha detto una famosissima frase, ha detto una famosissima frase con tutte le ragioni. Bravo. È quella la frase? Sì, la più famosa di sé. Sì, sì. Senti, allora guarda, io devo dirti con onestà che oggi non sono a Milano, non ho visto ieri l'allenamento, non so nei dettagli cosa ha fatto di test oggi Buffon per decidere di non essere in grado di giocare. Detto questo, per un portiere il risentimento muscolare è un po' così, no? Cioè, se fosse un centrocampista capirei. È oggettivo che questa settimana si gioca la partita più importante del campionato, o perlomeno quello che sembra essere la partita più importante del campionato, però sono perplesso, non vorrei pensare male, perché Buffon è uno attaccatissimo alla nazionale. Certo. Io so che a Napoli non l'hanno presa bene, certo, già dalla scorsa settimana con l'allenamento a parte. Pier Carlo, è anche vero che con la nazionale di questi tempi è fatale che si tiri indietro alla gamba, che si pensi alla partita della domenica, che ci siano altri pensieri per la testa e non vale solo per Buffon. Ma perché deve essere fatale? Ma la nazionale è una vetrina. Quelle stesse società che spingono per farli impegnare il meno possibile nella nazionale maggiore, a livello giovanile spingono al contrario per farli convocare i loro giocatori nelle rappresentative di categoria, perché con le rappresentative di categoria si valorizzano. Perché un giocatore che è arrivato in nazionale deve tirare la gamba indietro? Non trovo una spiegazione seria. Ma anche dal punto di vista così della realpolitik, sì, la nazionale è una vetrina che straordinaria. Gli italiani stanno in 22 milioni, in 23 milioni davanti al televisore per la nazionale. Ti capisco. Sono due festival di Sanremo, eh? Lo so. Pier Carlo, grazie. Ti mando un abbraccio, a presto. E a prestissimo. Pier Carlo Presutti, responsabile dello sport dell'ANSA, Andrea Davarese, convocato invece su questi schermi. Ciao Andrea. Buongiorno signor Genta. Allora, io volevo intervenire, in realtà sarebbero più argomenti, perché quello che vorrei dire riguarda un po' il modo di essere, soprattutto di pensare all'italiana. Cioè, noi siamo i ben pensanti, quelli sempre pronti per prima sparare su quando siamo il paese di commessopoli, il paese di calciopoli, e via dicendo. Poi appena Cassano esprime una parola sbagliata, ma non un concetto sbagliato, attenzione, perché Cassano, quando si è rivolto ai, e non dico la parola che si mi verrebbe voglia di dirla, non ha detto una cosa discriminante nei loro confronti, ha usato un termine dispregiativo, ma ha detto una cosa sacrosanta. Io capisco che ieri il CT della Danimarca abbia detto una cosa fuori luogo, sì, però sinceramente io, quando siamo qua a parlare ancora di quel famoso 2-2, mi vergogno di essere italiano, perché io ho visto quella partita, ho visto una partita combattuta fino al 90esimo, anche fino al recupero. Bello. Andrea, l'hanno fatta, ma hanno fatto, sportivi. Vabbè, ma guardi che sono molto bravi nel cucinare, perché io non ci credo neanche se me lo dimostrano, perché sono peggio di San Tommaso in quello. In quella circostanza presero vantaggio da una situazione che si era creata e che poteva permettere ad entrambe le squadre comunque di fare strada in un europeo, quindi Morten Olsen poteva, secondo me, star zitto. Grazie Andrea. Attenzione, perché Gagliani ha detto: Milan riparti, e con la Lazio torna Pato con la Lazio. Allertati i fisioterapisti e i medici di tutto il pianeta per il ritorno di Pato in rosso-nero. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi sms 348 239 238 6666. Sono 13 anni che lo dico e non ho ancora imparato. Giustissimo il biscotto di danesi e svedesi, perché è bellissimo fottere i ladri italiani. Sono italiano e me ne vergogno in ogni occasione. Noi siamo bravissimi anche a fustigarci, però devo dire, siamo bravissimi anche proprio a darci delle mazzate in testa. danesi e svedesi in quell'occasione, vabbè, ma insomma, sono storie talmente vecchie che lasciamo restare. Morten Olsen, secondo me, ha fatto un'uscita che si poteva evitare, non è stata elegante, avrà anche fatto benissimo a fottere gli altri italiani, però in quella occasione così avvenne, punto e basta. Nunzio Frosinone. Buonasera. Buonasera, mi era venuta in mente una castanata sentendo Cassano parlare dei giornali. Adesso giornalisticamente bisognerebbe scoprire chi legge i giornali a Cassano. Gliene faccio sentire un altro di Cassano, così si diverte anche di più. Stramaccioni ti ha fortemente voluto, no? Sì. Cos'è che secondo te gli piace di te? Non lo so. Ma gli avrei detto, sì. Spero che non abbia fatto la cazzata più grande della vita sua. Ma perché ti butti giù così? Ma io oggi per me sono rosso e fiori tutto. Sei contento? Poi domani se la temperatura inizia a salire è un disastro. Perché oggi va bene, domani boh. Però lui mi ha voluto fortemente e lo devo ringraziare sia lui che al presidente Moratti che ci hanno messo la faccia per il sottoscritto. Certo. E voglio solo ripagare sul campo. Io lo trovo irresistibile, uno dei migliori comici italiani, involontario naturalmente. Nunzio. Sì, esatto. Comunque quello che ha fatto il Milan per lui, visto quando era stato messo fuori dalla Sampdoria, sì. E quello che ha fatto quando è stato male, dovrebbe levarsi il cappello per il Milan, detto onestamente, anche se io non sono un milanista. Guardi, la gratitudine non fa parte del suo lessico, ma di molti altri, non solo di Cassano. Dica. Grazie. Eh? La ringrazio. Ah no, grazie a lei, ci mancherebbe. Alla prossima, grazie a Nunzio da Frosinone. Sentiamo un altro? Altro Cassano? Ho saputo che sei molto amico di Nagatomo, è vero? Sì. Perché non capiamo niente ogni volta che parliamo. Ma lui parla? Sì, parla un po'. Cioè. Lui? È da 3 anni in Italia. Quando ti parla, tu ridi perché ti viene da ridere, però non capisci niente. Però bravo, molto bravo. Ma lui non si offende, no? Ma non si offende, no. Ma tu gli puoi dire qualsiasi cosa, non capisci. Tanto torna Pato domenica con la Lazio, però si fa male, infortunio muscolare ed è l'ennesimo per Robinho. Fortuna muscolare alla coscia destra, l'attaccante si ferma e salterà sia la Lazio che il Malaga, abbiati alla bronchite, verrebbe voglia di prendere tutti questi e di mandarli in quella che mi sembra una specie di isola felice, comunque un'isola che funziona. 25 punti, 8 vittorie e un pareggio, nessuna sconfitta, 19 gol fatti, 3 subiti, un budget diminuito del 50% rispetto all'anno scorso. Allegri una volta allenava lì, adesso se la passa un po' peggio. Indovinate di che club sto parlando? Del Sassuolo, naturalmente. Ho fatto i numeri così poi nessuno ci accusa, ma parlate del Sassuolo perché è la squadra di Giorgio Squinzi, eccetera eccetera. Parliamo del Sassuolo perché sta facendo un avvio di campionato mostruoso e abbiamo Nereo Bonato, che del Sassuolo è general manager. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho fatto i numeri così poi non mi accusa nessuno. Lei mi dica come funzionano le cose al Sassuolo. Questo è, diremmo che è un progetto che è iniziato nel 2004 e che dalla C2 ci ha portato finora in Serie B. Abbiamo fatto gli ultimi 4 anni di Serie B, dove 2 anni abbiamo perso le semifinali playoff, prima col Torino e poi con la Sampdoria. Quest'anno, nonostante tanta amarezza per come si è conclusa la stagione scorsa e ridimensionamento chiesto dalla proprietà, visto la congiuntura economica generale, siamo ripartiti, ringiovanendo ulteriormente la rosa, cercando di contenere anche il monte salari, e i risultati insomma ci stanno dando ragione, probabilmente anche al di là delle nostre stesse aspettative. Sì, macchina da gol, tra l'altro avete anche preso un allenatore reduce da qualche fallimento come Di Francesco. Di Francesco veniva dall'esperienza non propriamente positiva di Lecce, dove era stato sostituito, però gli anni precedenti aveva comunque fatto bene a Pescara, raggiungendo una promozione e facendo un ottimo campionato di B. Ripeto, e quindi abbiamo dato fiducia. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato la filosofia di gioco, quindi siamo più offensivi, più propositivi, siamo riusciti a trovare probabilmente gli equilibri giusti fra i vari reparti e finora insomma i risultati sono ottimi, diremo. Senti, mi parla adesso di questo centro Mapei, che prima, una volta si parlava di Milan Lab, adesso c'è questo centro Mapei cui si appoggia tra l'altro anche il Monaco, squadra allenata da Claudio Ranieri. Come si lavora lì dentro? Si appoggia il Monaco e si appoggia anche la Juventus. Praticamente il centro ha iniziato il cammino con noi e fondamentalmente ci ha portato tutta la loro esperienza nel mondo dello sport e si cerca di applicare la ricerca scientifica anche all'attività diremo del calcio, mentre prima era nato per assistere insomma i ciclisti e gli sciatori insomma, ma il lavoro si tratta di cercare di tarare la metodologia di lavoro sui carichi di lavoro, quindi di misurare allenamento per allenamento tutti i carichi individuali per poter programmare quotidianamente, quindi di giorno in giorno, gli eventuali carichi di lavoro da sopportare per evitare insomma e prevenire eventuali guai muscolari. Diremo che tuttora insomma i risultati insomma sono ottimi, perché certo, a livello di preparazione la condizione generale del gruppo è ottimale e anche a livello di infortuni al momento è ottima, insomma. Diremo che siamo affiancati anche da un nutrizionista che segue l'alimentazione di tutti i ragazzi. Un bel dossier a Zeman su questo funzionamento del laboratorio del centro Mapei, non lo mandate? Beh, insomma, noi, ripeto, siccome siamo a disposizione di tutti, se venisse richiesto siamo ben felici di fare di spiegare come la metodologia di lavoro, perché credo che sia un passo in avanti ulteriore insomma. Sicuro. All'interno di attività sportive insomma. Dico una cosa, la Serie A pensate quanto la volete? Ma diremo che alla Serie A è meglio non pensare, perché quando l'abbiamo fatto dopo abbiamo sempre preso delle legnate, quindi insomma quest'anno ci siamo ripromessi di vivere la giornata. E quest'anno siamo partiti così e vogliamo continuare così, perché ottenendo questi risultati è comunque un bel vivere la giornata insomma. Un gran bel vivere la giornata. Le faccio sentire anche a lei una cosa. La pubalgia, sì, tu vai e dici hai la pubalgia, ti fanno l'ecografia, la risonanza, qualsiasi cosa, non risulta mai niente. La parola mia contro la tua, io sono male. Questo, come sai, era Cassano ieri da Fazio. Glielo mandiamo giù? Al centro Mapei? Però direi che sulla pubalgia do ragione a Cassano, perché la pubalgia veramente è il problema irrisolto attualmente a livello medico, perché nel senso che la pubalgia non sai quando ti viene e non sai men che meno quando ti passa. Sì. Quindi è un problema veramente irrisolvibile al momento anche nel mondo del calcio e anche a livelli diremo scientifici più alti. Ma glielo mando o no? Noi lo prendete? Lo prendiamo. Credo che Cassano sta bene all'Inter. Ti attento quello che dice perché poi arriva davvero Grazie, va bene, buon saluti. Lavoro, buon lavoro. Grazie. Questo è il rumore dei burattini, che siamo noi che andiamo dietro a Cassano. Uno dei pochissimi messaggi intelligenti di oggi è questo. Ma non c'è troppa gente che si vergogna di essere italiano per queste piccole cose? I motivi sarebbero altri. Paolo da Novara. Adriano da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire anch'io la mia sulla questione delle affermazioni del mister della Danimarca, che veramente non sono di buon gusto, però anche noi italiani il nostro comportamento non facciamo quasi nulla per far cambiare l'opinione agli stranieri su di noi. Abbiamo questa faccia, no? Abbiamo questa faccia e lo sappiamo bene, così come sappiamo bene che quella partita fu insomma fu aggiustata e nessuno ce lo leva dalla testa, ma perché i regolamenti avevano consentito, i regolamenti consentivano comunque a due squadre di ottenere un certo risultato e di come dire, concretizzare una situazione di vantaggio che avevano, che si erano guadagnati sul campo nei confronti dell'Italia. Poi in quella partita la fecero sporca e nessuno me lo leva dalla testa. Poi ci possono dire tutto quello che vogliamo, eh? Poi ci possono dire che l'avremmo fatto anche noi, perché è verissimo, però, esatto, però su questo punto io avrei un'opinione diversa. Probabilmente lei è colpevolista anche di fronte a, eventualmente a prove che dovessero portargliele sul piatto d'argento. Io sono innocentista finché non c'è una prova che l'hanno fatto. Che poi il caso fosse quello che, guarda, sì, proprio un 2-2 è una cosa difficile da abbastanza che avvenga, abbastanza. Però abbastanza. Credo che la mentalità sia completamente diversa. Se ho ancora 30 secondi, sì, per dire sulla partita Juve-Napoli. Ho sentito prima qualcuno dire che è la partita più importante o forse una delle partite più importanti dell'anno, e siamo a ottobre, e quando il ritorno cosa sarà? La finale del campionato del mondo? No, purtroppo, guardi, allora, purtroppo ci troviamo costretti ad enfatizzare una partita che secondo me non è una partita a scudetto adesso e non lo sarà neanche nella partita di ritorno. Io voglio, quella importante, vera, sarà la partita di ritorno, perché se Napoli sarà ancora lì attaccato alla Juventus, allora comincerò a crederci. Fino ad ora dico che la Juventus in questo campionato non ha avversari, poi sono qui apposta per essere smentito. Di Cassano ne abbiamo degli altri? Via. Niente, stamattina perdo la partitella e inizio a buttare i palloni da tutte le parti, così, senza motivo, perché sono un tipo che ha la puzza sotto il naso. Allora Bonucci ha risposto a Cassano, che ha detto alla Juventus vogliono i soldatini, e Bonucci dice più che soldatini, professionisti. Questo la puntualizzazione, la puntura di spillo di Leonardo Bonucci. Antonio Torino, buongiorno. Buongiorno signor Genta. Dica. Volevo fare una domanda, una curiosità. Il 20 novembre il CNAS darà una sentenza sul Lecce se dovrà ritornare in Serie B. Sì. Ma invece di subito di risolvere la situazione Conte, non si poteva pensare a risolvere prima questa situazione? Perché poi se Lecce all'ottava, alla nona giornata viene ammesso in B, come si farà? Ma io non credo verrà, che Lecce verrà riammesso in B, credo piuttosto che verrà... Però il rischio c'è. Sì, il rischio c'è, credo però che verrà praticata la solita soluzione all'italiana, per cui a Lecce in qualche modo verrà scontato qualcosa, ma non credo, che mi sembra assurdo riammettere una squadra alla Serie B a giochi in corso. Mi sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra, dunque a quel tipo di soluzione non ci credo. Poi, come lei sa benissimo, non finiamo mai di sorprenderci. Nicola, provincia di Napoli? Salve, dottor Genta, eccolo la trasmissione. Grazie per Nicola. Lo spazio. Ma grazie a lei. Mi abbassi anche la radio, così facciamo tombola e riesco ad ascoltarla. Sì, devo dire solamente una domanda. Prego. È ironica anche. Ironica. Ma Buffon, sabato sera, sì, gioca contro il Napoli. Poi un'altra cosa volevo dire. Siccome adesso è intervenuto due minuti fa un radioascoltatore, cioè non è che io sono un tifosissimo del Napoli, intervengo spesso anche nella sua radio, però le dico, per me la partita più importante è Juventus-Napoli, cioè vedendo Milan che si trova a 5, 6, 7 punti in zona di retrocessione, l'Inter che tentenna vincendo, sì, un derby anche se si trova a 4 punti dalla vita. Beh, lei legge la classifica e dice una cosa ovvia, ma è chiaro, no? Io, in questa partita qua doveva avere ancora più spettacolo di domenica sera, non so se lei è d'accordo, questo volevo dire. Poi per quanto riguarda, spero da tifoso del Napoli, che Napoli riuscirà a mantenere questa media e magari a fine anno a trovarci lì su. Ma sì, ma anch'io lo spero. Ma sì, ma lo spero anch'io, ma per quello che dico, che la vera partita importante sarà quella di ritorno, perché se la partita di ritorno avrà questa luce, allora vorrà dire che il Napoli davvero avrà fatto e starà facendo la stagione dei sogni. Adesso mi sembra molto presto, mi sembra solo una partita molto suggestiva tra due squadre appaiate nei punti, continuo a credere che la Juventus sia la più forte. Mi auguro che il Napoli la metta in grande difficoltà. Mi auguro che il Napoli vinca a Torino. Guardi cosa le dico. Mi auguro che il Napoli vinca a Torino con è inutile che Matteo Comest dalla regia mi faccia le corna. Spero che il Napoli vinca a Torino con De Santis migliore in campo. Guardate un po' cosa vi dico. Allora, adesso il malcapitato di oggi, poveretto, Dario da Bergamo, si becca la domanda sulla Champions League. I numeri della Champions. Intanto per cominciare chiedo scusa, siamo stati invasi dalle segnalazioni, peraltro corrette, perché ci eravamo dimenticati di un altro 4-0, Franco Piantanida. Sai, vero? Sai che te lo sei dimenticato, il 4-0 di Atene del Milan sulla Barcellona dello spocchioso Cruyff, del Milan di Capello sul Barcellona dello spocchioso Cruyff. Dario, buongiorno. Buongiorno. Allora, se non ricordo male, l'ultimo era di Savicevic, di quei gol, di quei 4 gol. Mi pare di sì. Comunque, buongiorno. Buongiorno. Senta, le faccio il domandone. Pronto? Vai, proviamo. Vai. Allora, gli allenatori che hanno disputato il maggior numero di finali della competizione sono 3. Me ne dica almeno uno. Ancelotti? No. Benissimo. Capello? No. Perfetto, ne ho azzeccati tutti. Non so, italiani o stranieri? C'è un italiano e due stranieri. Un italiano e due stranieri. Non può essere Mourinho, ma non credo. No. Ecco. Vabbè, dai, glieli dico io. Lippi. Guardi, lo pensavo, ma ho detto: ma è impossibile. Vabbè, non è mai vinta, bravo, sono una. Capaci tutti. Assolutamente. Lo stavo per proprio, dire. Allora, Lippi ha pari merito. Pari merito con Muñoz e con Sir Alex Ferguson. Stia lì, Dario. I numeri della Champions in collaborazione con Unicredit. Sicuramente aveva qualcos'altro da dire, Dario. Velocissime, prima cosa, sì, io sono orgogliosissimo di essere italiano, alla faccia di tutti quelli che dicono, bravo, che, cioè, quello che hanno detto prima, sinceramente proprio non mi vedo così messo male, anzi, sì, io l'Italia la porto in giro dove posso, a testa alta. Sì. Una cosa velocissima invece sul Milan, secondo lei il discorso qua è che a me vanno bene i ragazzini che giocano, giochiamocela come ce la giochiamo, vediamo alla fine dove arriviamo, ma non è un po' una cosa fatta per mettere a posto le cose e poi veramente vendere un pezzo di Milan e tornare a avere quattro soldi in più? Quello che probabilmente si augurano tutti i milanisti, no? Sì, certo, ma magari può darsi che succeda veramente, nel senso, non tutto, ma magari un pezzo lo vendiamo. Ma ne abbiamo parlato l'altro giorno, io sulla vendita... Scusa, ma io essendo in no, giro... No, ma guardi, sulla vendita di un pezzo di una società io sono sempre stato scettico. O si vende il pacchetto di maggioranza, e allora chi mette i soldi comanda, oppure nessuno mette i soldi per far comandare gli altri. Franco Piantanelli in redazione. Spero Matteo Comes in Torino regia. Con De Santis migliore in campo. Guardate un po' cosa vi dico. Ciao.